3. Ascolta e ripeti. Signora, si ricorda che cosa accadde la sera del 10 settembre? Ricordo che uscimmo di casa dopo cena. Restammo in veranda per un po'. Poi iniziammo a notare quelle luci in lontananza. Sa dirmi a che ora vedeste le luci? Fu allora che vide suo marito per l'ultima volta? Lui decise di andare a vedere da vicino. Mio marito pensò a un incendio e volle andare a vedere. Sfortunatamente non riuscì a fermare mio marito. In realtà ebbi paura di accompagnarlo. Senta, quando notò i segni nei campi? Non li notai io. Furono degli scienziati che qualche giorno dopo, dagli elicotteri, fotografarono quei disegni.